Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Genesi capitolo 13 versetto 4. E mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la mangiarono. Nessuno ha insegnato come Gesù. Fu un maestro eccezionale. E qui sta usando un'immagine con cui i suoi ascoltatori avevano una grande familiarità. Probabilmente aveva un seminatore nel suo campo visivo e illustra in modo vivido come la parola di Dio cresce nel cuore di chi l'ascolta. Che cosa succede però quando la parola non trova spazio in un cuore indurito? Questa riflessione ci sfida a considerare dove stiamo seminando e come stiamo ricevendo la parola. Cerchiamo di comprendere meglio il passo. Questo frammento appartiene alla parabola del seminatore, uno degli insegnamenti più noti e significativi di Gesù. Il seme che rappresenta la parola di Dio cade su diversi tipi di terreni, simboleggiando i veri stati del cuore umano. La strada, invece, simboleggia un cuore indurito, chiuso al messaggio di Dio. Può essere compattato dall'incredulità, dall'orgoglio o dalla trascuratezza spirituale, impedendo al seme di penetrare. Gli uccelli, invece, che in questo caso rappresentano il maligno, arrivano rapidamente per portar via ciò che avrebbe potuto essere vita e trasformazione. Questo tipo di terreno ci avverte sull'urgenza di preparare il nostro cuore per ricevere e trattenere la parola di Dio. Ecco tre verità che possiamo estrarre da questo passo. 1. Il cuore indurito perde opportunità divine. Come il seme rimane esposto lungo la strada, un cuore che non si ammorbidisce con umiltà e pentimento può sprecare le verità che Dio desidera piantare. Chiediamo al Signore di aiutarci a mantenere un cuore ricettivo e attento. 2. Il nemico cerca di rapire la parola. Il maligno conosce il potere trasformatore della parola di Dio e farà tutto il possibile per distrarci, riempirci di dubbi o rubarci le verità che riceviamo. Per questo dobbiamo essere vigilanti e custodire la parola nel profondo del nostro essere. 3. Preparare il terreno è essenziale. Come un seminatore prepara il suolo prima di seminare, anche noi dobbiamo preparare il nostro cuore mediante la preghiera, la riflessione e la ricerca costante di Dio. Un cuore disposto e lavorato darà frutto in abbondanza. Come sta il terreno del tuo cuore? Indurito dal peccato o dalle distrazioni della vita? Oggi prenditi un momento per chiedere a Dio di rimuovere ogni ostacolo e permetterti di essere un terreno fertile dove la sua parola possa crescere e dare frutto. Preghiamo. Signore, esamina il mio cuore e rimuovi ogni durezza che impedisca alla tua parola di mettere radici. Proteggimi dalle distrazioni e dagli attacchi che cercano di rubare la tua verità dalla mia vita. Aiutami a essere ricettivo e obbediente, affinché la tua parola produca frutto abbondante in me. Amen. Oggi leggiamo Genesi capitolo 14, Matteo 13, Neemia 3 e Atti 13. Grazie per essere stati con noi. Un giorno alla volta è una produzione liberamente tradotta e adattata in italiano. Se desideri approfondire, ricevere ulteriori risorse o metterti in contatto con noi, cercaci online come Chiesa Evangelica Logos. A domani!